Aspetta un attimo. Ma senti la chitarra. La senti? Non so, io adesso se tu provi a suonare. Sì, no, capisco, capisco. Non lo so, maestro, io adesso ho inserito una cosa a due. Forse forse perché va inserita la chitarra al posto della cuffia. Sì, io non ce la faccio.